America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi parleremo di Fiat, Sergio Marchionne a New York. Ho fatto una chiacchierata con lui per questa grande operazione di rifinanziamento, ma prima di addentrarci in questioni finanziarie, parliamo di politica. The president has made the decision not to release any of the photographs of the deceased Osama bin Laden. Avete sentito Jay Carney, portavoce del presidente Barack Obama, niente foto, le attese foto del cadavere di Bin Laden ucciso, la prova che molti nel mondo islamico attendevano, non ci sarà. Il presidente Barack Obama ha deciso che queste foto, piuttosto violente, non saranno diffuse. Vorrei farvi sentire, e ve lo leggo, quello che ha detto il presidente in un'intervista che andrà in onda domenica con la CBS, con CBS 60 Minutes. L'intervistatore gli chiede: ha visto le fotografie? Obama risponde sì. Qual è stata la sua reazione? Era lui. Perché la decisione di non diffonderle? E qui Obama racconta: lo abbiamo discusso a lungo, siamo assolutamente certi che si tratti di lui, c'è l'esame del DNA, l'importante ora è essere sicuri che queste foto molto crude che mostrano un uomo colpito alla testa non diventino un nuovo incitamento alla violenza, uno strumento di propaganda. Non esibiremo le foto come un trofeo. La cosa importante è che abbiamo fatto giustizia, ma la natura di queste foto potrebbe mettere a rischio la sicurezza nazionale. Ne ho discusso con Bob Gates e Hillary Clinton e siamo tutti d'accordo. Ci sono persone, insiste l'intervistatore, in Pakistan ad esempio, che non credono alla morte di Bin Laden. E Obama chiude: non c'è alcun dubbio sulla sua morte e certamente all'interno di Al-Qaeda sanno che lui è morto. Non riteniamo che una fotografia possa comunque fare la differenza. Certo, ci sarà chi continuerà a negarlo, ma il dato di fatto è che non vedremo più Osama Bin Laden camminare su questa terra. Ecco, dunque, questa è la spiegazione che ha dato il presidente di questa sua decisione, chiaramente tormentata, difficile. La spiegazione ha a che fare con la sicurezza nazionale. L'idea era che queste foto, e dobbiamo fidarci, ma evidentemente dovevano essere alquanto devastanti, avrebbero scatenato forse qualche emozione sbagliata nel mondo arabo, una scheggia impazzita, e naturalmente sempre possibile averla. Sappiamo che Al-Qaeda, come dicevamo ieri con Guido Limpio, è divisa in varie fazioni, in vari paesi, possono esserci molte cellule diverse, e dunque si vuole comunque minimizzare il rischio che ci sia una reazione. La scelta è questa, va contro naturalmente la trasparenza proverbiale americana, però Jay Carney ha anche detto che ci saranno molto probabilmente altre prove, e cioè le prove del DNA e le prove attraverso il computer a ricostruzione del viso di Bin Laden attraverso le famose fotografie. But congratulations, you're really moving fast with the debt financing. How confident are you about the likelihood of a Q4 IPO at this point? I mean, given the pace of I think a lot of it depends on what the other members of Chrysler want to do. I think that the objective has always been to monetize the interest of VIBA, to give them liquidity. Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat, lo avete ascoltato, era stato interrogato da una collega giapponese che per cominciare si è congratulata con Marchionne per la rapidità con cui si è mosso in questa operazione di rifinanziamento che è stata discussa ieri a New York con le banche. Una notizia intanto che abbiamo dato, che ho dato questa mattina sul nostro giornale, è la notizia che c'è un'accelerazione in questo rifinanziamento, perché l'operazione che doveva chiudersi alla fine di giugno in realtà si chiuderà il 24 maggio con altre scadenze. Il 4, ieri, la giornata in cui l'operazione è partita con l'incontro con le banche, con gli investitori istituzionali, il tipico road show. Il 18 maggio ci sarà la chiusura delle sottoscrizioni, il 24 maggio il closing, la firma e l'erogazione dei fondi. Quindi un'accelerazione piuttosto forte. A cosa ci porterà questo? Beh, innanzitutto a giocare d'anticipo sulla possibilità di ottenere altri fondi dal Ministero per l'Energia americano. 3,5 miliardi di dollari sono lì pronti, stanziati per Marchionne, e ascolteremo poi più avanti in una intervista che ho fatto con lui come quello resta uno dei suoi obiettivi centrali. La strutturazione di questo rifinanziamento importante consentirà a Chrysler di risparmiare circa 200 milioni di dollari all'anno, ma sentiamo direttamente da Sergio Marchionne cosa ha da dirci di questa operazione e di altre vicende che ruotano attorno ad essa. Quando ci sarà un bilancio per questi modelli? Sembrano tutti molto belli. Beh, guardi, questa qua è appena entrata in distribuzione, l'abbiamo cominciato a distribuire alla fine. La 300. La 300, la lanciatema. Quindi arriverà adesso in massa di distribuzione nel mese di maggio, cominciamo a vedere i numeri. Questa qua va benissimo, la Grand Cherokee, quindi continua ad andare benissimo, è il leader del mercato. La 500 è cominciata a entrare nei concessionari adesso, ne abbiamo meno di 50 in America, ma si vende già bene. Che ritmi ci saranno? Che obiettivi si dà a lei per dire che la vendita della 500 è un successo? Quante vendite in totale prima? In totale volevamo fare circa 100.000 vetture da Toluca, ma circa metà andranno a finire in Brasile e metà verrà su in America. Quindi se andiamo oltre i 50.000 all'anno che ci aspettavamo in un anno pieno, quando andrà in distribuzione, saremo contenti. Quindi quest'anno 25.000? Circa, un po' di più forse. C'è stato già una trimestrale di Chrysler che ha dato soddisfazione, immagino. Per il collocamento in borsa di cui si parla, lei pensa più all'inizio dell'anno o prima, magari alla fine di quest'anno? È una cosa da discutere con gli altri soci della Chrysler, quindi bisogna parlare con il trust della Weber e decidere quando conviene a loro andare. Tecnicamente alla Chrysler non servono soldi dal mercato esterno una volta che completiamo questa serie di rifinanziamenti, quindi è più per dare loro liquidità, per dare la possibilità a loro di monetizzare l'interesse che hanno nella Chrysler. Quando succederà dipende anche da loro. Comunque sarà una svolta dal punto di vista anche della gestione industriale il poter passare in questa seconda fase e quindi risolvere il debito pesante e costoso che c'era col governo americano? Sì, abbiamo già fatto vedere i dettagli, risparmiamo circa 200 milioni di dollari all'anno di interesse, non è che parliamo. 200 non sono sciocchezzuole, no? Son bei soldi. E nel conto economico della Chrysler, considerando la fase in cui si trova di rinascita, sono numeri importanti. Poi magari fra 5 anni non farà la differenza, ma adesso importa molto. Un'ultima cosa, c'è qualcuno che dice che lei non è soltanto un genio industriale, ma un genio finanziario. Apprezzo il complimento, non è proprio così, perché abbiamo dato moltissima proprietà intellettuale alla Chrysler come dote agli inizi, quindi c'è stato un coinvolgimento piuttosto pesante della struttura della Fiat, il mio qui sul pezzo, quindi non è che ci hanno regalato niente, cioè si chiama sweat equity in inglese, proprio il capitale guadagnato col sudore della fronte, no? Abbiamo fatto veramente, sono contento. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Songs for Japan. È il disco di beneficenza per le vittime del terremoto in Giappone distribuito su iTunes dal 25 marzo. Ha già raccolto 5 milioni di dollari. Da ieri il doppio CD è disponibile anche nei negozi. 38 grandi successi di diversi artisti, Bob Dylan, Madonna, Eminem. Ascoltiamo uno dei brani di chi? Beh, del ragazzino di Justin Bieber, Pray. I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes and pray. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.